neanche usarsi, stavo usando l'altro. Adesso sei uscito bene, perfetto. Avanti, Lubefest. Veia, Tonino mi ha rubato le parole di bocca. Non so perché ha cambiato radio, magari avrei i suoi buoni motivi, comunque prima lo ascoltavo meglio, adesso qua mi arriva un po' compresso. Sì, infatti schiacci il PTT e poi aspetti un attimino prima di parlare, perché sennò ti mangia praticamente l'inizio della frase, Erika. Avanti. Quanto ci sei frequenza? No, vabbè, io ero entrato negli anni che furono, poi sono sparito. E poi sono rientrato così per caso, dai. Vabbè, più o meno gli anni che furono, che anno era? Metà anni 80, dai. Cosa è successo? È un po' lunga la storia da raccontare, dai, comunque ci sono ritornato per caso, dai. Ma va bene uguale, ok. No, sono curioso, che anno? Ah, in che anno ho esordito? Cosa è stato? 84-85, ma non con questo nominativo però. Non mi ricordo di tempo. Ma io ci sono dal 74, capito? No, vabbè, io sono durato poco. Mi facevo chiamare Grifone. Ho iniziato con un portatile, poi con un radio. E poi ho mollato tutto perché sono arrivate altre passioni. E niente, quindi mi sono dedicato ad altro, dai. Ma io Grifone conoscevo un tipo che pesava 150 kg ed era il figlio di Luisa Zona Pompieri. Il Grifone conosco quello lì. Sai come funziona con i nominativi, no? Che poi saltano fuori i doppioni. No, vabbè, ti ripeto, ho esordito più o meno quel periodo. Ho fatto qualche anno, poi ho venduto tutto e mi sono dato alle radio libere, dai, sono entrato a lavorare in una radio libera a Sassari, visto che ero appassionato, sempre in radio si parla, però in FM, dai. Sì, ma quanto ci sei stato tu negli 80 che hai detto? Qualche anno, dai, 3-4 anni, 3 forse, dai, 3-4, barra, ma sporadico, dai. E a me non mi hai mai sentito? A voglia. Mi ricordo di te, di padre Francesco, Luterano, come ti si chiamava, un sacco di nominativi mi sfuggono adesso. Eia, dai, te lo ricordo io qualche uno. Falcone. Quello è una bruzzurra, dai, sono anche modulato. Vedi un po', vedi il capo. Chi che l'ha chiamato? Sì, questo era Gianni, io sono rientrato. Ok, ripeti fa. Scappa, cosa fa ancora? Tu, ma che zitto? Non ti hai perso niente. Non mi ha tipo strano, ma in te giù. Quando si grattava i piedi faceva così. Arriva via fin d'inverno. Aspetta che c'è Riccardi a parcheggio. Riccardi poi faceva il doppio rotto. Riccardi. Ma l'hai visto quello che ti ho mandato? A me? A Fabio. Oh, adesso lo riapro perché ero di bassa e mi veniva male vedere. Perché non mi ha detto nulla? Ho detto, ma strano, forse non l'ha visto. Peccato, guarda, adesso lo apro. Ecco qua. Quello lì. Non sto guardando. Io poverino. Questo è Gianni che sta agitando il cane. Il cane mi risponde. Aspetta. Niente. Lo senti il cane. E pure a me l'ha mandato. Qual è il discorso che ci facciamo la mattina? Riccardino, ma non è che c'è dietro anche lì tutto, no? No, deve essere di bassa. Regard. No, questo non l'ho capito. Ma io veramente la sola di Grifone non l'ho mai conosciuta. Grifone sì, perché bazzicava da Gianni Capricorno. L'ho conosciuto per caso, perché ho avuto parole con Luisa, la mamma, e una volta vado a meccanico da Gianni e c'era questo tipo bello grasso. questo Griffone, figlio di Luisa, e me, e Gomito, cosa mi ha su lui? E si è baciato. Doveva soltanto dimagrire e basta, anche da troppo grasso, anche non riesce a mangiare l'umidica, la carità. E poi, Gianni doppio, lascialo stare quel povero cagnolino. Lui è contento così, lui fa i suoi discorsi insieme a me la mattina. E mi piace fare queste cose, perché poi viene e mi scodinzola tutto, cioè, mi piace. Capo, avrei voluto avere io il cane così già grande, capito? E via, sono ancora cucciolotti, 7 mesi, e rompo le palle, capo. Lui è già cresciuto, anche lui è stato piccolo, e cresce. Io invece l'avrei voluto più piccolo. Vabbè, passerà anche per loro. Andare, levate un buffet. Ehi, ho visto che è entrato Capri 2, non so se mi ascolta. Capri 2, mi dai un rapporto di segnale se mi copi, avanti. Ok, F104, tornato, siamo lì. No, non ho mai saputo che era morto. Vabbè, faccio la mia sua. Sì, pure il carissimo amico Torre alla Verne, che anche lui ci ha lasciato. Vabbè. Riprendi il cammino. Vabbè, comunque, c'è Fabio, c'è ancora? È a Canarino, mi sono ricordato del solito. Tony. A Canarino, te lo ricordi quello che faceva le pizze in via Roma? Canarino? Che era grosso, un bel grasso io. Canarino, c'è uno che fa la pizzeria in via Roma, che faceva le pizze un bel buono. Non me lo ricordo. Sarà quando ho nato io forse, per un bel po' di tempo. No, era dei vecchi vecchi proprio. Era del periodo di Macallè, di cosa, di... come si chiama, Giulli. Ma entrava la notte almeno? La notte no, più che altro entrava di giorno. E io di giorno, ma cavolo, che cavolo, ecco perché non mi ricordo. Cappa, vabbè. Ogni tanto si ricorda qualcuno che è stato, che ha fatto la studia. Italo Lai, Italo, cosa si chiama? Ancora, lo chiamava Ancora, lui sì, Ancora. A chi spetta? Avanti, a chi spetta il microfono? Aspetta a me, primo. Mi pesi fa? Kappa. Ma capi due, ho fatto un controllo, ascolto di radio. Io di solito non tocco niente, mi sono toccato giù quando mi ha fatto il controllo poco fa, forse ha funzionato. Pazienza. Avanti Riccardino. rimasto solo io. No, sei rimasto solo tu, tu stai iniziando, va bene. Che ne entrano tanti come te, per me fa sempre piacere. Che è entrato 27, vabbè, tranne i figli di CB. L'unico maschio che ho sentito è il figlio di Giovanna, Mirko. Il figlio di Giovanna chi? La sorella di Alice. Ah, io Marco l'ho conosciuto, Giovanna quando era proprio piccinita. Già, ma Pupugno non si fa sentire. Pupugno l'ho sentito prima e non si fa sentire, non so perché. Perché sto cucinando. Lo chiami, entra. Ciao Antonello. Antonello. Di porco, quello originale. Antonello. Stavo facendo il sugo, ditemi tutto, cosa c'è? Ma dopo le fai le polpette, che cavolo. Domani sera ti va bene? Se no, ho capito. Cosa mi hai chiesto tu lì? Per domani sera ti va bene? Che cosa, dimmi? Se non me ne ricordo adesso, stavo facendo il sugo e sono spaesato. Pizzicotto. Ah, pizzicotto. Per me. Va bene, lo stesso, non c'è problema. Vengo con Gianni e andiamo a lei domani sera. E va bene, mi stasera abbiamo festeggiato con Giovanna al bar qua sotto. Al di fuori di Toglia, hai visto le foto. E dove l'ho visto le foto? Sul Facebook le ho messe. Ma su Facebook sul coso tuo o di Giovanna? Quello mio, quello di Giovanna è uguale. Cioè, quello di Giovanna stamattina c'era cosa, c'era un amico suo, ma quello mio no. Vabbè, un attimo di San Mike e vado subito a verificare. Quindi stai facendo il sugo? Ehi, il sugo con la tinte, ma ti sei tutto incasinato. Beh ragazza, hai fatto una certa, io devo scappare perché la domani si parte presto presto. E allora saluto gli agenti di Trompetta, che ci sentiamo un poco e quasi niente, e soprattutto quando lui mi sente. Saluto di Torino anche di St. Paul, saluto di Doppio Room, saluto di Ancalbau che è troppo tomo, complimenti. Antonello, ci sentiamo domani magari, anche a te Riccatino. Mi sono dimenticato qualcuno? Spero di no. Vabbè, a parte giustamente Gianni Capirue e Claudio. Ci sentiamo domani, aspetto il finalino e quello è esecutivo. Ciao a tutti. Ciao Fabio, ciao domani. Ciao Fabio, ci sentiamo, dai. Buona nottata, dai. Dormi tranquillo, ciao. Ciao Fabio, molto di te, saluto e ci sentiamo. Antonio. Ehi. Ma Giovanna è quella che c'ha la maglietta rossa, cioè nera con la scritta rossa, vicino ai due bambini. Ehi. E scemo che è cambiata. Non l'avrei riconosciuta se la vedevo. Ciao Fabio, comunque buon quarantino, approfitto, vado a prendere la carriola, saluto a tutti, a tutta la ruota, anche se si è formato un bel corseo, però la carriola aspetta. E come ho detto, saluto a tutti, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao, ricadi buona carriola. Ricadi buona carriola, devi andare a portare la palettatura, bubù. La cosa che ho detto io, Riccardino, ti conviene prendere la carriola che fai piatti, che fai tanti viaggi. Se piove lo voglio vedere come si riempie la carriola d'acqua. Celone, non c'è problema. Meglio Riccardino che si è organizzato. Ah, meglio così allora. Ciao Riccardino, buon curetti. Ben ascoltato e salutone anche a Fabio che ascolto più, vabbè. Comunque buon corretti anche a lui, dai, ci sentiamo alle prossime. E niente, cosa volevo dire? Ah, ok, Riccardino sta attrezzando con la barella e quindi dai, a domani, ciao. Anche a te, ciao Gianni, non ti sono stato benvenuta. Sì, la carriola è molto importante, se vedi, Antonello pensavo che robuccia il yoga. Secondo te devo mettere il telone quando piove, resisto a qualsiasi intemperia. Ciao Riccardino, ciao, wow. Cappa, ciao Riccardino. Buon carica tu pilota quando lo fai, e sogni d'oro. Ciao. Ciao, ciao. Cappa, ma non è città da me. E ciò che non è sull'altro, lo baracchino. Fagli un battè. qui ti abbiamo tenuto al vivo, ti stavi afflosciando. Che magari, grazie altrettanto, dai, avanti tu. Aspetta, aspetta, vedo l'ultimo messaggio. Ok, ciao, ben trovato. Dai, ho scritto un messaggio a un amico che mi ha dato un messaggio. E beh, tutti morti? Tranquillo, siamo tutti vivi, siamo tutti vivi qua. Meno male, è l'ora. Aspetta che mi tocca le balle. Ma lo è. Adesso vuoi mandare prima, diciamo in sardo uno. Ciao Manuele, ciao Alessio, buonasera. Ciao profeta, imbarrato. Bene, bene, da. Ciao Manuele. E picchi positivi, Lima Delta, vero? Sì, con me. Sì, ma anzi, ho chiamato, buon nulla. Ma volevo mandarti un messaggio, puoi trovare. Ma la televisione stai guardando? No, sto dicendo Tonino. Tu vedo che dopo rientravi alla persona, se entra Tonino già entro anch'io, e invece altro senz'altro sto facendo un richiedi poco, invece no. Ho capito, ma io ti parlo più di roba di un'ora, fammi. Si è addormentata allora. Tu alla persona cosa hai detto? Di poi frequenza prima, hai detto, se rientra Tonino già rientro anch'io. E si è dopo un'ora. Ma non ha cambiato spacciatore. Ti sei addormentato, vabbè. Oh Emanuele, ma cosa c'ha mai? Spacciatore oggi. Ho detto, si è cambiato spacciatore. Oh via, oh via. Sì, vabbè, già è. Io mi sono addormentato dopo pranzo, non dopo pranzo, ma sole sì. E poi mi sono svegliato, mi ha svegliato Tonino. Mi ha telefonato Tonino, mi ha citato. Io ti ho rotto nel sogno. La sveglia mi ha fatto, se no non me ne ho recitato. Oh, apri tu mi dubita domani. Che caipita? È un cane come Tonino, un cane. No. Cosa? Se incidiamo domani, è un cane come ti aveva fatto. Ah, il cane già ce l'ha da mangiare sempre, c'ha le crocchette fisse il cane mio. Ha le crocchette, che se ne ha voglia, va le mangia, ma non è difficile che lo fa. Deve essere proprio affamato. Anche se sta una sera senza mangiare, mi dispiace, ma non è che li faccia più di tanto, perché già si avuta bene a pranzo, mangia un bel po' di pasta, la carne, tutto. E comunque quella persona ha trovato gli altri pizzi mancanti, meno male, sono contento. Li ha trovati? Sì, mi ha dato il messaggio poco fa, e poi tra la notte io glielo ho già cambiato, ho detto meno male. Spero che entro questa settimana ce li arrivano. Perché? Ah, ha trovato il full. Scappa. Chi no che non si acciappa più nulla, lui. Allora. Avanti le buffe. Eia. Oi. Volevo dire una cosa, adesso mi è sfuggita di cabeza. Vabbè, la memoria a tempo breve se n'è già andata, cazzo. Vabbè, Piacenza. Dai signori, visto che ci ho preso la palla al balzo e vi saluto tutti, grazie della chiacchierata e della compagnia, e un saluto circolare a tutta la banda del 10, ci sentiamo nei prossimi, ok? Ritenetevi salutati tutti, anche alle orecchie pelose in ascolto. Buonanotte a tutti e grazie alla compagnia, ciao ciao. Ciao Gianni, ciao, buonanotte, ci sentiamo, avanti tu. Ciao Gianni, alla banda Bassotti. Ciao, buonanotte, ci sentiamo. Avanti, Pompucci. Sì, acqua sogno. A voglia. Allora, buonanotte a chi sta andando via, e ci sentiamo un'altra di ieri, diceva quella. Capri 2. Attorno al fuso Capri 2, mi è arrivato 9:20, dopodiché c'è sceso il fumo attorno. Boh, qui c'è il monte, poi ti vanno i vasi, dopo una ghietta rientra a voi, poi ti vanno i vasi, Comunque io già non mi sono riposato per niente, da una parte all'altra. Però mi sono spiegato un bel po' di cose, le più importanti le ho spiegate stamattina. Anche io. Tutto fatto stamattina, adesso domani devo andare dalla dottoressa di mattina. È meno male, quel cliente che mi ha chiamato ha detto la prossima settimana, perché a me che giorno è fatto domani, poi invece ha cambiato, non sono più contento, dai, a me mi sbrigo tutte le altre cosette che devo fare. Sì, a solo che ci domani mangio la pizza, Antoni, ma sta per la bici mia, c'è gabbietta a casa, una ghita, ma andava a fammi pensare. Aspetta, ma non è che domani posso prendere anche a te? A che ora? Se mi ti va per l'impegno? No, non so, vengono adesso le 7 e mezza a fare il tempo. No. Ah, va bene. Più tardi andiamo, caffè di chiusura. Se andiamo, andiamo dopo le 8. Dopo le 8 io ci porto il cane, gli do da mangiare e poi andiamo. Vabbè, io passo un po' prima a prendere Emanuele, capito? Poi passo, faccio il giro piano piano. Vabbè, facciamo così. Andiamo da quella persona che hai detto tu. Scappa. Emanuele, ti va bene? Sei attento, dai. Ascolta, tu fidati di tuo padrino. Io già ti porto a vivere. Tranquillo, che stai bene. Portiamo a vivere. Non ti preoccupare. Antonello. Dimmi. Domani sera posso prendere anche a te. Sì, va bene, non c'è problema. Io già riconosco i buchi. Dove portare Emanuele, capito? Fallo vivere un pochettino. Sì, ma tu già puoi uscire, sì, ma Antonello. Sì, a quest'ora dopo le 8 già posso uscire. Ce ne riporto intanto a casa, capito? Domani. Sono tranquillo. Certo che ti prendo e ti riporto, non c'è più fare. Sì, dopo di già poi facciamo prendere a te, ok, tranquillo. Figlia, non c'è problema per quello, se c'è mi riporto a casa. C'è anche stasera, quindi sono tranquillo per quel motivo lì, non è che lascio la Simona da sola, capito? Vado lì, mangio e poi mi trovo a casa. La chiamata del pronto soccorso, capito? Quindi no, non la prima volta si sbatte. Però stamattina mi faceva male il culetto, mi ha detto, mi fa male il culo, Antonella, mi fa male il culo, ho detto, perché che ti sei mossa? Schina, ragazzi. Ma chi sono su con l'acqua? Ho fatto l'aria. Non ho capito, si è fatto? La maschera fatta l'aria. La maschera? La magna, il sugo. Sì, tutto è già pronto. L'ha fatto per quello stanotte, per come ti vuoi per domani, capito? Ma l'alzami verso le 9:30, 10, capito? E almeno sono tranquillo. Così a cena, faccio pranzo e cena. Avanti Gianni. Che è quella tua madre natura? Sì, ma tutte magrolide sono qua della madre natura, capo. Che cosa? Tutte magrolide sono. Sono troppo magre. Sono di quelle anorisiche. Come seno, il culetto c'è un piccolo piccolo, capo. C'è un certo trono americano, capo. Chi c'è così così? Hai chiamato anche lui, capo. Tu basta che scendi giù quella zona, sono da lì, sanguinaccia a te. Ma non è qui che fa anche la faerimmi. Per carità, per carità. Già scendo io domani a bermi la birra, capito che il padre mi ha conservato, la cassa me l'ha conservato. Ogni volta che scendevo mi bevevo 10 bottiglie di quelle birre. Alla fine è stato un mese non mi ha più chiamato. Antonio, se vuoi ti portiamo domani, vai a salutarle e a baci. Sarà Emacolo, ma manco ci passo a fianco io. Lascia perdere, guarda, che un giorno mi ha detto a baracchino, guarda, io ci sono rimasto veramente male, ma in vita mia non ho fatto una figura di merda come quella. Mi ha fatto una... La madre dice, ti piace mia figlia, come c'ha le tette, la vuoi te la sposi, ha detto, fa la cosa, ha detto, non mi cercare più, che non ci vengo più, così gli ho risposto. Antonio, ma Pierandrea che fine ha fatto? Pierandrea è sposato, c'ha figli, abita a Porto Torres, quanto mi hanno detto. Ma è pedofilo però. Ma cosa pedofilo, già è tranquillo. A voi, beh, secondo te, cazzo, se lui ragazzi si presenta con te tutti i giorni fuori, cazzo, dove guardi tu? Mica guardi come si chiama i microfoni, l'apparecchio, tutti quanti quello perché lo mettono in esposizione. Sì, ma 30 anni c'aveva lui, mi ricordo tempo fa, andava in casa lì perché c'erano le due gemelle che ce le guardava e l'occhio. E quindi uno in certa età guarda le ragazzine che erano piccoline, è un pedofilo. Beh, quello è una cosa logica, perché ti viene distinto a un certo punto. Non è che per forza sia pedofilo o pedofilo, ma se uno per fare la cosa, due, mi sembra che aveva 18 anni o 17, mi sembra, ci si presentano con questi paraurti fuori, a un certo punto mica guardi il padre e la madre, no, ti guardi quello, ti guardi, eravamo tutti i giorni lì, io me andavo, a me andavo io a bere la birra più che altro, ma se era un tubo a me di quelle tette. Manuele invece andava a trovare a Falcone. Poi ti fatto, sposato. Pensavo di aver trovato la fortuna, diceva adesso sono a posto, e invece ti sei rimasto trombato, tutto un tratto, cazzo. A volte capita, lascia fare le donne di fuori, usa quelle delle sarde che sono meglio. Ha sfornato tre figlie, poi, beh, vivi la noce, per carità, mamma mia, la capellina, tu te ne sei fuggito. E manico sessuale, non hai capito questo, lasciamo perdere, ma Tony, quello manico sessuale, Emanuele. Allora, lui ci è andato a lavorare fuori perché si è scappato da lì, a fare ciò, dai. Ah no. Quella gli succhiava del sangue. Il sanguinaccio. Il sanguinaccio, già ti piaceva, chi sa maglietta, così, a righe, bucata, a camicia. E come ci grattava? Col pollice, attaccata alla faccia e con le quattro dita, tra. Dimmi, sono qua. Ah, io. Io sono un giovane, non è vero. Una voce è per i vasi. Guardi, signor Torino, non nota niente. Guardavo, no. Non vede niente, no. Mi, tutta gonfia sono. E quando si può scappare alla cuccia. L'ha riciclato la Iana. Non lo sta parlando, no. Assolutamente, oggi mai faccio un movimento, ma che sogna, ma è da famiglia, oh yeah, mamma. Te lo ricordi, ma lei ha una cioccia, la sua vicina di casa, te lo ricordi che gli fregava il fidanzato a lì, e che aveva con quella la figlia, dice, ce l'ho con una cioccia perché mi frega sempre i fidanzati, e da me è pigliato un asino. Dunque, io una delle gemelle Maria l'ho vista, c'è stato qualche volta a prendere il caffè, poi non l'ho più sentita, dopo due mesi mi mando un messaggio e poi non mi prestavo 500 euro. Ha giubilato e l'ha già bloccata, non sparisce. Ma pensavo avevate chiuso. Ah? Pensavo che avevate chiuso. No, ti avevo chiamato, ma tu eri già andata, boh. No, sono andata a farmi l'iniezione. Ah, che affare. Hai capito? Cioè, ti sei sposata, hai fatto una figlia, non è figlia. Ti sei separata, ti fumi 50 pacchetti di sigarette. Non ci siamo mai frequentati, un tempo quando era piccolina però, con i genitori. Poi sei sparita, poi ci siamo visti dopo tanti anni, al funerale del padre. Qualche caffè è mia, e mi inviti un caffè a casa tua, vado a casa tua a mancare, e quando, e poi dopo una settimana, un mese, ti mando un messaggio che va a prestare 500 euro. Ma non fuori, diciamo. Io la cosa che odio più di tutti, quando una donna manco non si può dire che la conosci, ti chiede gli assunti. Ma ne siete dalle palle. Sì, Facebook è pieno adesso, già l'hai notato già. Ogni giorno c'è di una che si presenta, tutti a chiedere i soldi. Guarda, c'è una persona che c'ha una camanita, adesso non c'è frequente. Io ne aggiungerei, lo so che ti mando capo il culo, dall'altro giorno. Anche lui mi ha scritto una, roba che ha giusto, mi sembra strano che io ho scritto una cosa, cioè, neanche da sbronzo. In parte che mi ha scritto, dice, dato che mi vuoi, dice, intestare tutti i tuoi beni, dice, mandami la documentazione, già ci penso io, ha giusto, ma cosa si scema o cosa? A me quella che lui mi ha detto una volta Costa d'Avorio, ma te la conosco già, nel senso che Costa d'Avorio è le mantellette che dice, ma di me quando mi stava chiedendo qualcosa io ho detto guarda, io sto cercando una donna che mi dà soldi così non lavoro più, è scappata. E beh, ma sono tutti con la domanda, sono capito, Costa d'Avorio, cosa, Senera, tutta quella roba lì. E poi cerca di soldi, capito? E quindi ho preso una per carità, guarda, c'è tutto di mano da fanculo, tre mi hanno scritto, cosa fanno? La cosa è questa, allora prima ti chiamano su Messenger, dopo che sei su Messenger ti chiedono il numero di WhatsApp, in modo che non lo possano, cioè, che non lo possano bloccare. se tu vai su WhatsApp viene un pochettino male, capito, bloccarle, perché possono fare quello che vogliono loro. E quindi quando mi chiedono vai su, dammi il numero WhatsApp, fa la cosa, vai a fanculo immediatamente, chiuso tutto. Ma bisogna vedere un po' che ti fanno, come ti dice che conosciamo noi, e niente pure. Ma avanti, Manuè. E come ce lo porti? A braccio di calore. La vedo, la mattina, cioè. Mamma mia, tappeti, che non ci sono la zona. Ok, vai, ciao Manuè, buon lunedì, ci sentiamo domani. Avanti, doppio. E io, ciao Manuè, ci sentiamo, dai, buonanotte, ce la faccio la voce da sconvolto. E ciao, sono, mi vedi avanti a talento. Ciao Manuè, ci sentiamo, buon corretto, buon tutto domani. Ciao, ciao. E così, cosa ci vuoi fare? La vita è questa. Adesso vediamo compilare i fogli, ma sono scaricati sulla mia stampante. E adesso... niente, devo compilarli, ma sono un po' complicati questi fogli. Le faccio vedere mia collega attraverso il sindacato, così mi aiuta lui. Adesso bisogna fare tutto online. Io stamattina quando sono andato lì all'ufficio delle entrate, un togliaio era, cazzo, un togliaio. Tutte le domande bisogna fare online, hai capito? C'era un tipo poveraccio dei paesi, era tutta la mattina ributtato per un timbro, hai capito? Quindi non conviene neanche andare nel suo ufficio, se no ti incassi e pigli e spari qualcuno. Ah, io non ce l'ho andato sul lupo, si apre le luci. Ciao mio. Che giornata movimentata che ho fatto oggi. Marco ha riposato, mi sopra. Io ho recuperato di sera. E meno male che ti ho svegliato io. E se no vuoi. No, no, mi avevo dormito lo stesso. Io sono abituato a farmi la pinnichella dopo pranzo. Se non dormo rimango sconvolto. Sconvolto. Davvero. Mi sento sempre strano, stanco, allora mi devo riposare per forza, almeno mezz'oretta. No, anche a me mi viene a volte se la bianco addormentare per il pisolino, però quando so che devo fare cose una parte all'altra non ci riesco, capito? Sono sempre attivo. Poi arriva la notte e crollo, infatti quando esce dalla televisione, spendo il baracchino, guardo la televisione, qualche film che mi piace, mi addormento, ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, poco a farti gli occhi, altro che film, quello ti sveglia. No, e poi la mattina alle 4:30 già sveglio. Non va così presto. Abitudine. Infatti mi guardo la televisione fino alle 5, alle 5 mi alzo. Mi preparo le pastiglie, colazione, poi 5:15 faccio uscire i cani fuori. E niente, mi preparo con calma. Non vedo l'ora che arriva già un orario che posso uscire. Ah, è vero che tu sei già resi domiciliari. No, no, no, no, guarda che io sono per il governo, così. Non so le malattie per colpa mia, quindi io posso anche uscire, mi sono informato. Ah, cazzaga, perché ti hanno mandato le malattie? Eh certo, mica io, Il medico del lavoro, giustamente per coronavirus, io sono cardiopatico, allora, capito? Non avevo fatto le visite perché non me l'avevo fatto fare a marzo, c'era coronavirus, quindi il risultato non gliel'ho mai dato io, sono stato a fare la visita che si fa ogni anno, e metto e l'analisi che non l'ho fatto perché non me l'hanno fatto fare, gli ospedali sono chiusi, allora devo mettere in quarantena 2 mesi, amico mio l'ha fatto lo stesso 2 mesi, non me l'ha detto. Ciao ragazzi, e vabbè, ti riposi un po', dai. No, ma c'è perché ne approfitto un po' di più perché ho soccato nel disco un casino, ho fatto una risolta magnetica, quindi. E vabbè, comunque, adesso dopo domani ritiro gli analisi e quindi se voglio posso rientrare anche su tutto il lavoro, però se mi passa il dolore mi dico dai. Poi ti metti in malattia a crescere il dolore. No, no, no, no, no. O entro definitivamente vado a lavorare oppure aspetto fino al 18 luglio. Ma infatti. Come vedi se c'è questo dolore? E è un po' troppo, erano il disco, le otto era, una un po' grande e due piccole. Voglio informare se a laser lo fanno qualche altra lettera. Mi faccio il gioco alla calzetta, me lo metto. Faccio sentire i peli. Cazzo? No, questo viene meglio, guarda, senti. E cosa so, peli di Spirito Gonzale? Peli di lamiera, so. Ah, quindi non è la colpa. Buonasera a tutti quanti, Ciao Lucino, buonasera. Mi mancava lui l'appello, ciao Guidoncino. Non ha sentito parlare di donne, Leoncino è uscito a Pisa. No, sentite parlare di peli. Ma sai io, per i peli, di donna, sono sempre il trucco. Cappagatto, paia. E vabbè, comunque, io online non mi piace, dai. Online non mi piace rimorchiare donne. Io necessito uomini e donne singole, visto vai. Tutte si fanno la fotografia, poi e sono tutte sposate, perché una volta a me, in pratica sono stato fino alle 6:30 del mattino a parlare con questa, in chat, figurati. Tutto un tratto sparisce, evidentemente è diventato il marito, è stato tutto il giorno senza entrare in chat. Di domani prendo, ho visto, ho detto ciao, come va? Mi chiama e mi scrive, cosa cazzo vuoi da me? Mi ha risposto. E ho risposto, ascolta, fa una cosa, fatti fare in culo tu e tuo marito, gli ho detto, prima hai detto in qua, e tu in chat a cercare tu uomini, e tu hai detto, mi rompi la balla a me. Ma perché non te ne vai a fanculo, gli ho detto. E le sparito a casa. Ma non è che ti ha risposto il marito che ha trovato la scritta? No, tranquilla. Ma, vabbè, comunque no. Così non mi piacciono, dai. Io ho conosciuto solo una di provare, così e vabbè. Poi non ne ho più, non ci sono più andato. Allora, a me mi ha detto tutto lei, tutta la notte. Tu immaginati che io sono stato tutta la notte sveglio, mi sono guardato la televisione, poi mi sono fatto la... tutta la notte mangiando, stavo mangiando, bevendo qualche cosa, eccetera, fino alle 6:30 del mattino. E poi si mette più a sparisce, non risponde più questa. Ha giocato, ma sarà rovinato, ha pensato io, tutto il giorno senza entrare. Mi chiama, tutto entrato mi fa, cosa cazzo vuoi da me? Mi ha risposto. Ha detto, tu cazzo sei chiamato tu, che cosa vuoi da me tu? Gli ho detto. E a volte sono maschi che ti parlano e tu pensi che sia una donna, si fanno credere donne e sono maschi e ti fregano, ti fanno mandare fotografie nudi, cose del genere e poi ti fregano. No, ma le sue so che mi mandano la fotografia nudo, io posso mandare quella di Falcone al limite, capito? Quando avevano fatto il gavettone col coso, con la schiuma. Ti posso mandare quella, ma la foto mia, non, come fanno un sacco di gente, non la mando io. Non so quante siti ci sono di ragazze, sembra che sono quelle, invece non lo so. Prima sono con i capelli neri, poi totalmente diverso, con i capelli biondi, con i celesti, capito? E si fanno la foto, lo sai, tra amiche, no? Hai capito? Poi di avere quello che vogliono ottenere. Tu di fregare i maschietti arrappati, e le foto lo usi lì, magari gli chiedono, io lo so perché ho avuto amici che gli è successo, che ti chiedono le foto da nudo e poi ti ricattano, ti chiedono soldi, ti dicono se non mi dai soldi, dico che sei pedofilo, eccetera, eccetera. Sì, basta. Quando fanno una cosa del genere che ti vogliono ricattare, elimini tutti gli amici immediatamente, tutti quelli che c'hai, e si attacca la puppa, ci vuole molto, cancelli tutto quanto, da amici, Facebook, Messenger, WhatsApp e cose del genere, si attacca la puppa, li blocchi tutti. Dopodiché cambi come fanno loro, hai capito, nome e cognome, cambi il sistema e loro sono fregati, non ci vuole molto. fate come me, io ho chiesto 30.000 euro, volevo provare una bella macchina nuova e sono scappate loro. Non ci dici la tua. No, io per l'avventura che ho avuto già, mi ho già mandato a cagare il tre. Ah, e vabbè, anch'io. Ma io però non così su internet, la verità, ne ho conosciute di persone. Ma già, tanto me, il discorso è quello. Le donne vogliono solo quello e basta, non vogliono altro. Dunque, non me ne frega. Se ti vogliono che sei banchiere, sei avvocato, sei qua, mi interessa solo quello, basta, avere tutto, basta. Poi del resto non me ne frega niente. Ehi, ehi, basta non farci fregare. Ma basta non arrivarci a quel punto che ti chiedono soldi, mandare in affanculo subito. Non può essere che una donna appena la senti su Facebook subito dice ti amo, ti voglio bene, ma che cazzo ti conosci? Cioè già ti sapevo per il culo al volo, allora le devi mandare in affanculo direttamente senza continuare. Invece Giuseppe si innamora. E Giuseppe... Tu vede paradiso, Ci lascia andare, vero Giuseppe? Insomma, a me mi chiamo Giuseppe Uccello di Rocco. Dunque, bene, se Tonino non sa qualcosa, dove non cucco io, cucca lui. Giuseppe, Tonino ne sa qualcosa, è cosa è successo da lì? Che lui cercava le donne e me le scopavo io invece. E allora cosa c'entra lui che dice che è Uccello di Rocco? Ma già ci siamo capiti io e Tonino. Io cuccavo, no? E lui strombava alla faccia mia, hai capito? È così che vuole, ci vuole l'aiutante, no? Vero tu? E io facevo la strada, giustamente. Ci vuole tanto, Giuseppe. Ci vuole fascino. Ci vuole anche la parlantina. Ci vuole anche nient'altro che... Ci vuole anche la pioggia, la giusta, la giusta. Mi dissocio da questo caso. Avete iniziato voi, io ero in ascolto, Tanto tu sei con gli orecchi per la franco sempre, Tony, vero? Io sono una persona seria, Giuseppe, queste cose non le ho mai fatte. Come portate nella cattiva luce? Beh, questa è una cosa, Tony. Portiamo pure al Pompone a vedere se riusciamo a far cuccare anche a lui. A dove lo portare al Pompone? A Pisa. Porta Gianni, mi. A me non va lui. Io già sono autonomo. Si fa da sé per tretto. Giusto. Io già so bene come sto. Due e sono a posto. Non di voce. Quello non mi manca mai. Il resto non mi manca niente. Quindi sto bene anche così. Sono contento per te. Aspetta due minuti, sei tu subito che mi ha chiamato Simone. Sì. Troviamo una Giuseppe, dai. Dai signore, a mezzanotte là. Se qualcuno mi ha chiamato di abbassare le voci, là. E tu parla con il silenziatore. Ciao Giuseppe, bravo. Ciao Giuseppe, buonanotte. E così. Che baghera. Ma scrivi che io sono proprio zitto. No, io sono più pigiama, già da me. Il pigiama. Io non so proprio il pigiama. Io. No, c'ho quella manica corta e fatta così corte, stipo. Io guarda che l'inverno è mutante per tutto, mi scappo subito nel letto. Ne avrei tu. No, ti credo, qua c'è caldo. Mezzo la felpato e dove vai? Ui, non mi devo che mi scoprivo che poi quando ti pigli nei freddi, allora di notte verso le 3 mattino, allora mi scoprivo. Ci fa bene nel letto, io c'ho vetro in camera qua, voglio. No, per già fredda non c'è. Anche io ci vedo in camera, no? Quindi a doppio strato. E via. Quando avevo più freddo freddo, allora 10 minuti o 4 ore accendevo il condizionatore, quando la camera era calda, entravo con i capi, spegnevo tutto, il condizionatore, già, e mi sfogliavo, mi sono nel letto. Ma l'hai visto su Facebook come fa per avere l'aria condizionata in due stanze un poveraccio? No. Castani ha fatto un buco tra la camera e l'altra e se li puoi un condizionatore unico. Tutti la ciappa, questo qua ci ha usato per avere a questa tipa da mangiare lombrichi, scorpioni, tutte le cose magnetti, cavalletti arrosto, che schifo. Andà via. No, lo vedo anch'io col programma a volte. Ma adesso dici che fra poco saranno negli alimenti nostri questi siti. No, penso proprio no. Se sono ancora vivo, io mi continuo a piantare la roba che mi piace, ma la mangio. C'è che hanno proteine, che fanno bene, mamma mia. Non si deve mangiare niente. Perfetto, anche se mi fanno. Ma che noi ci mangiamo una gioca. Ma la vedete le domande con scorpioni, cavallette, che tipo, scarafaggi, bla. E la rosta sono buoni, il profumo della rosta. Vedo un taccio fatto, ma la gente lì si fa il birricca adesso che in Sardegna c'è l'invasione ai cavalletti. E te lo vedo, le catture te le vedi. E di quelle grosse, stava facendo un anno raccolto allucinante. Ti fai l'allevamento già per 3 mesi. Stanno mangiando tutto il raccolto fatto in un anno di sacrifici, che si è lavorato la terra, coltivata, fatta, arata, eccetera, e poi si mangiano il tutto. Purtroppo, siamo gli artisti civili, hanno le promesse di più di tanto, se non pure finire la roba. Non so, ma cazzo. È un casino, quando ci sono queste cose naturali, si mangiano tutte le foglie. Allora, io ho fatto vedere, io farò di max a volte, fanno vedere nell'Africa le formiche che mangiano le foglie, c'è buco di magna, raga. Io una volta mi ho trovato una piazza tutta mangiata dalla cavalletta e mi ho trovato anche a lì. E mi sono tutto se è in Cittica, è un casino. Anche i cicchi sono buoni arrosti. Che schifo, guarda. E i pepizzeretti, le migliate. Cazzo male, mi coccodri. No, ma se non mangio fare una seminata dell'anteriore della scala del topo. Ah. Eppure, ragazzi, i cinesi se li mangiano tutti, a morsi, a mamma mia, da bimbi. Io li ho visti, cazzo, questa ragazza che si mangiava il topo e si stracciava la testa. Io da ragazzo ho visto film al cinema, al teatro Verdi, Africa ama, Africa violenta. E gli africani si mangiavano di catarane, tra i denti, ciacciarne, guarda che schifo qua. Allora poi una ragazza vergine le entravano un affallo in legno e la svirginavano. All'uomo metteva quella fare in una canna, due pezzi di canna fatti due, e lo tirava in dunque e tagliava il petto. Un altro c'aveva mal di testa, questo santone con le due mani in testa, così scendendo, poi lo faceva scendere mal di testa nel braccio allungava nel braccio, nella mano, nel dito minimo, taglialo, tagliava di netto, il mal di testa è passato, dice, cazzo, se ne vedi, si mal di capo e rimane senza di dito. Se lo credo che passate la più dolorosa, il dito se lo dimenticava della testa. Perché sai, ma le cose schifose che ho visto, guarda, per qualità, no. Oh, yeah. E in Africa fanno cose per, non so che, praticamente per concimare la terra, per fertilizzarla, il maschio si fa il buco e c'entra il pene nella terra. Yeah. E gliela concima. Ho tolto comunque il microfono a tavola, sto usando il macchino normale io. Adesso col macchino normale? Sì, da poco fa. Esce bene. Questo è il suo originale. Esce bene tu, per quello che vuole quello, l'amico Duccio. Mi dà il baracchino. Sì. Allora già ne vedi. Non si dà questo qua. Io ci muovo spesso, guardate, viene più breve quando sono coricato. Ma è che la tavola lo uso qualche volta, capito? Poi lo stacco lo uso ormai, che è normale. A me non mi piace perché c'è il filo più duro. E va bene. Ma basta tirare un pochettino e ho preso il fulmine. No, no, io già ce l'ho il campo fulmine, vi ruggiamo. Allora, va. Io. Buongiorno, eccetto. Tony, buonanotte. Ci aggiorniamo domani, ciao. Ok, dai, a domani. Ciao, Popone, se ce l'ascolto. Ci sentiamo. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao.